Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, benvenuti a quello che è il Pinsimonio numero 40, che è oggi a tema lavorativo. Le parole sono maccartismo, stacanovismo, fordismo, taylorismo e infine consumismo. E con questi paroloni cominciamo con maccartismo, che è un atteggiamento politico che ebbe diffusione negli Stati Uniti d'America negli anni intorno al 1950, caratterizzato da un'esasperata contrapposizione nei confronti di persone, gruppi e comportamenti ritenuti sovversivi. Fu così chiamato dal nome del senatore McCarthy, che diresse una commissione per la repressione delle attività anti-americane, operando attacchi personali nei confronti di funzionari governativi, uomini di spettacolo e di cultura da lui considerati comunisti e in quanto tali responsabili di minare i fondamenti politici e ideologici della società americana. Il termine è rimasto in uso nella polemica politica, soprattutto per indicare un clima di sospetto generalizzato da caccia alle streghe, determinato da un anticomunismo ottuso e alla lunga controproducente. E a proposito di comunismo, la seconda parola è stacanovismo, che deriva dal nome del minatore russo Alexei Grigorevich Stakhanov, che nel 1935 raggiunse nell'estrazione del carbone un massimo individuale mai raggiunto prima. Quindi lo stacanovismo è un movimento sorto in Unione Sovietica dopo il 1935, diretto ad accrescere la produttività stimolando gli operai a un maggior impegno, con incentivi di vario genere o attraverso la propaganda e l'emulazione, da cui potevano risultare eventuali modifiche nell'organizzazione del lavoro. E da qui, per estensione, in senso scherzoso o dispregiativo, indica un eccessivo zelo nello svolgimento di un lavoro di tipo subordinato. E dai, non essere stacanovista! Altra parola che indica un tipo di organizzazione del lavoro e divenuta imperante nell'era industriale moderna è il fordismo, che è un sistema di organizzazione e politica industriale attuato a partire dal 1913 da Henry Ford nella fabbrica di automobili da lui fondata, la Ford appunto, che sulla base dei principi del taylorismo mirava ad accrescere l'efficienza produttiva attraverso una rigorosa pianificazione delle singole operazioni e delle fasi di produzione, con un uso generalizzato della catena di montaggio e un complesso di incentivi alla manodopera, come paghe più alte o orari di lavoro ridotti. E come abbiamo detto, il fordismo prende ispirazione dal taylorismo, che è l'organizzazione razionale del lavoro, che fu iniziata praticamente e teoricamente tra l'ultimo 800 e il primo 900 dall'ingegnere statunitense Taylor, fondata sull'analisi dei processi di lavorazione e sulla razionalizzazione, ai fini di una resa economica ottimale del ciclo produttivo e dell'attività lavorativa, con la programmazione dei movimenti e dei tempi necessari, l'eliminazione dei tempi morti e degli sforzi inutili, la regolazione del flusso dei materiali e la selezione del personale o l'incentivazione del rendimento. Questa pratica è comunemente connessa con il procedimento della catena di montaggio. E come sappiamo, la catena di montaggio serve a garantire una produzione di massa, che non può essere sostenuta se non con un consumo di massa. Quindi l'ultima parola è consumismo, che ovviamente è un derivato di consumo. Il consumismo è un fenomeno economico-sociale tipico delle società industrializzate, consistente nell'acquisto indiscriminato di beni di consumo, suscitato ed esasperato dall'azione delle moderne tecniche pubblicitarie, le quali fanno apparire come reali bisogni fittizi allo scopo di allargare continuamente la produzione. E se la piccola Greta di certo non approva questo fenomeno, forse per salvare il nostro povero pianeta sarebbe opportuno consumare un po' meno e ragionare un po' di più. Buona giornata e a domani sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata! Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.